Hashtag Autotrasporti. Buongiorno, buongiorno da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. Nel sistema di reti e connessioni lungo le rotte internazionali delle merci, il Brennero, potremmo dire, rappresenta un passaggio cruciale sull'asse tra il sud e il nord dell'Europa. È infatti il valico alpino più trafficato. Ogni anno vi transitano 2.200.000 tir. Questi tir trasportano complessivamente 33,5 milioni di tonnellate di merci, alle quali vanno aggiunte quelle che viaggiano sui binari, cioè l'equivalente di 13,4 milioni di tonnellate. Giusto per rendere l'idea, dal Brennero passa poco meno di un terzo di tutto il traffico merci che transita dai nostri valichi alpini, quindi una fetta significativa del nostro export verso il cuore dell'Europa. E infatti, ogni qualvolta sull'onda della cosiddetta emergenza migranti l'Austria ha minacciato la chiusura delle frontiere, si sono alzate forti le preoccupazioni da parte non solo della nostra logistica, ma anche del nostro sistema produttivo. Al di là dei muri agitati da Vienna, il punto di svolta per un sistema di trasporti all'insegna dell'intermodalità e quindi della sostenibilità è atteso tra il 2026 e il 2027, quando i primi treni transiteranno nella galleria di base del Brennero, che con i suoi 64 chilometri sarà la più lunga al mondo e supererà così quella del Gottardo, inaugurata il 1 giugno 2016. Vi potranno transitare treni più lunghi, fino a 750 metri, e più pesanti, fino a 1.600 tonnellate. Il tunnel di base costerà, comprese le opere accessorie, poco meno di 6 miliardi di euro e sarà l'infrastruttura più importante all'interno di un piano di connessioni tra l'Italia e l'Europa, destinato a costituire una svolta epocale per il nostro sistema logistico. Di tutto questo si è parlato in un convegno che si è svolto nella sede della provincia autonoma di Trento, al quale hanno partecipato anche il ministro Graziano Del Rio e il professor Ennio Cascetta, amministratore unico di RAM, Logistica, Infrastrutture e Trasporti, la società in house del Ministero. Sentiamolo al nostro microfono. L'Italia ha una bilancia con l'Europa che vale il 50% dell'import e l'export contro il 2% con la Cina, e quindi il nostro partner assolutamente prioritario per la crescita economica è quello dei paesi europei. Rispetto a questo, il primo valico, il più importante dal punto di vista del traffico, è proprio quello del Brennero, con 50 milioni circa di tonnellate di merce scambiate all'anno, e quindi questi pochi numeri danno immediatamente il senso dell'importanza strategica di questo valico. Dei 6 miliardi di euro che l'Italia e in misura minore l'Europa stanno investendo su questo corridoio, e dell'idea appunto di connettere l'Italia con l'Europa, oltre che con se stessa, attraverso tutto il sistema dei valichi alpini. E in questo decennio si realizzerà un'impresa veramente storica che, dopo 150 anni, ripropone l'attraversamento del ferroviario delle Alpi dal valico dei Giove al Frejus, al Sempione, al Gottardo, al Brennero, e quindi tutto insieme decine di miliardi di euro per connettere l'Italia con la ferrovia con standard europei al resto del continente. E sempre in questi giorni, per la precisione mercoledì scorso, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Mare Bonus, l'incentivo a favore dell'intermodalità mare-gomma. È l'epilogo di una vicenda lunga e travagliata, sentiamo ancora il professor Ennio Cascetta. Finalmente ci siamo, veramente sono stati 2 anni di lavoro intenso con la Commissione Europea per l'approvazione, con le strutture del governo italiano per l'approvazione del bando, ma adesso è in gazzetta e finalmente, diciamo, c'è la possibilità di incentivare una grande eccellenza italiana, che è quella delle autostrade del mare. L'Italia è il primo paese in Europa per l'uso delle motorways of the sea, e penso e spero che con questo bonus continueremo a fare di quelle autostrade del mare un elemento fondamentale del nostro sistema logistico. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto correttivo porti, che completa la riforma entrata in vigore l'agosto dell'anno scorso. Tra gli elementi di novità più significativi, citati in una nota diffusa da Palazzo Chigi, la semplificazione nella pianificazione portuale, la riforma del lavoro, l'introduzione di varianti e piani regolatori portuali per interventi di natura infrastrutturale. Nella riforma del lavoro portuale non viene riconosciuto il carattere di lavoro usurante a chi opera sulle banchine. Di qui la protesta dei sindacati, venerdì scorso sciopero nazionale di 24 ore, l'agitazione era stata indetta già da settimane. Dalla categoria dei lavori usuranti è escluso anche quello di autotrasportatore, mentre invece vi rientra quello di autista di bus e di pullman. Un'impostazione è contestata dal mondo dell'autotrasporto. Anita, una tra sei sindacati confederali, hanno inviato una lettera al ministro del lavoro Giuliano Poletti per chiedere che anche gli autotrasportatori possano ottenere il pensionamento anticipato. Sentiamo Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti. Noi siamo una categoria che lavora, che fa un lavoro difficile, guida la notte e guida anche al giorno, quindi non vedo il perché non sia da considerarsi un mestiere usurante, soprattutto considerato che siamo sulle strade, possiamo anche nell'età avanzata diventare anche un pericolo sulla strada, quindi diminuire quella che è la sicurezza sulla guida e sulle strade. Noi abbiamo chiesto di essere inseriti nelle categorie dei mestieri usuranti, anche perché il governo ha sancito alcune categorie usuranti, in particolar modo i conducenti di autobus e quindi di trasporto persone sono già state considerate usuranti, mentre invece l'autotrasporto è stato lasciato fuori completamente. Più che altro la questione che si era approvato col governo, che ha fatto questa via sperimentale di 2 anni dell'APE Social, che però anche in questo caso all'APE Social erano sempre esclusi i conducenti artigiani, perché il conducente artigiano sembra che non venga usurato, soprattutto dato dal fatto che il conducente artigiano, che guida il camion in prima persona, sia negli autobus, quindi trasporto persone, sia nel trasporto merce, è escluso, e non vediamo il motivo di questa esclusione, per il semplice motivo che questa gente è usurata maggiormente ancora di un conducente, perché oltre a essere conducente anche titolare dell'azienda deve gestire l'azienda, deve gestire la manutenzione anche del veicolo. Ora a un po' di numeri tratti dagli osservatori statistici che periodicamente ci aggiornano sull'andamento del settore. Nei primi 9 mesi del 2017 sulle autostrade la circolazione dei mezzi pesanti è aumentata del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Solo a settembre l'incremento è stato del 2,5%. Si tratta di dati ISCAT elaborati dal Centro Ricerche Continental. Percentuali che indubbiamente indicano una ripresa del settore, però resta sempre da capire, quando si parla dell'aumento dei flussi del traffico pesante, quale sia l'incidenza dei vettori esteri, dell'est in particolare, impegnati nei servizi internazionali e in quelli di cabotaggio, cioè i trasporti nazionali effettuati all'interno dei confini di un altro paese. Altri numeri da ANFIA, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica. A novembre il mercato degli autocarri ha fatto segnare una decisa flessione, meno 13,5% rispetto a 12 mesi prima, in calo anche rimorchi e semirimorchi pesanti, meno 5,7%. Va detto che a novembre 2016 il mercato aveva segnato performance da record con crescite vicine al 100%. Lo stesso discorso vale per i veicoli commerciali, quindi con massa inferiore alle 3,5 tonnellate. Qui a novembre il calo è stato dell'8%, ce lo dice l'osservatorio di UNRAE, l'Unione dei Costruttori Esteri. Parliamo ora della rottamazione bis delle cartelle esattoriali per gli autotrasportatori, e la questione riguarda anche le multe. Accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate, fino al 15 maggio 2018 c'è la possibilità di compilare un modello online che consente di risparmiare le sanzioni e gli interessi moratori. Per le multe l'agevolazione riguarda solo la mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Capiamo meglio da Angelo Ciaravolo, esperto di questioni fiscali collegate al mondo dell'autotrasporto. Chi ha già presentato con la precedente versione della rottamazione la domanda oggi potrà praticamente sanare soltanto il periodo che va dal 1 gennaio al 30 settembre 2017. Chi invece praticamente non ha mai presentato la domanda potrà farlo per i carichi praticamente dal 2000 al 31 dicembre 2016. E tra l'altro è stata estesa anche la possibilità per chi invece si è visto respingere la precedente domanda. In questo caso potrà ripresentare la domanda. Quindi allora, dopo aver presentato la domanda, l'Agenzia delle Entrate esamina quindi quali sono le cartelle rottamabili e comunica l'esito direttamente al contribuente. E va ricordato che per i carichi rottamabili dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 questa comunicazione arriverà direttamente al contribuente entro giugno 2018, mentre per quelli affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, la comunicazione arriverà invece entro settembre del 2018. Da aggiungere che l'istanza può essere presentata anche direttamente agli sportelli della riscossione o tramite PEC all'indirizzo di posta certificata dell'Agenzia delle Entrate di riferimento. Con questo hashtag autotrasporti oggi finisce. Vi ricordo l'appuntamento del sabato con Massimo De Donato, 13:15 container, un approfondimento su questi temi. Grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì alle 13:45, il giorno di Natale, da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti.